vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 26 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.49 e tramonterà alle 16.27. Domenica prossima ci sarà luna nuova e siete di nuovo all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Il punto sull'agricoltura che sarà tra effetti della pandemia sui prezzi, buoni risultati nell'export e sfide future aperte dalla prossima politica agraria comunitaria. Ne parleremo in apertura di puntata per passare poi alla storia di Angelo Floramo dedicata oggi al pane, di chi il pane non sempre lo aveva. Il contrasto delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e agroalimentare nella rubrica delle normative per passare poi a una pianta da frutto esotica che si può coltivare anche qui, la feijoa. Prima di proseguire a studiare la biologia delle api faremo il punto sulla terminologia che si usa in apicoltura per avere poi altri consigli su quando e come piantare gli alberi. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano chiudono la puntata. Si chiude il 2021 del settore primario del Friuli Venezia Giulia, un anno complesso dominato dalla pandemia. Ne parliamo con Stefano Zanier, assessore regionale all'agricoltura, che ci dice quali comparti hanno sofferto di più e quali di meno. È corretto dire che la pandemia ha influito anche sull'agricoltura, però bisogna essere onesti anche nel dire che comunque ha avuto degli effetti minori rispetto ad altri settori. È chiaro che i consumi sono stati la base per la quale molte produzioni sono andate in sofferenza, specialmente nei primi mesi dell'anno, poi c'è stato un rimbalzo significativo. Oggi nella realtà i comparti che soffrono di più sono quelli collegati a delle dinamiche non direttamente agricole ma di incremento di costi oppure di valorizzazione bassa, penso al prezzo del latte. Ed è chiaro che questo è legato a quello che è il valore del prodotto poi in commercializzazione, che dovrebbe tendenzialmente avere un aumento e invece oggi resta ancora statico e non consente di remunerare correttamente ai produttori il giusto prezzo. Ecco, infatti si parla spesso di come la crisi sanitaria ha influito sul costo di alcuni materiali per l'edilizia, all'elettronica, non si pensa all'agricoltura dove pure questo ha avuto un ruolo. Sì, ha avuto un ruolo determinante. Pensiamo a due semplici esempi: uno quello del costo delle autotrazioni, l'altro è quello per l'alimentazione, perché dall'altra parte c'è stato un incremento sostanziale dei prezzi di tutta quella che è la mangimistica. Assessore Zanier, qualche numero sul mondo dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, occupati, imprese, fatturato? Gli occupati sono in calo, anche se stanno entrando un numero importante di giovani e questo dà prospettiva. Il fatturato in realtà è un fatturato in crescita, dovuto anche all'aumento dell'export. E parlando di export si può parlare di vino, funziona molto bene il prosecco, sullo sfondo resta la questione del prosecco croato, la regione come intende andare avanti? Allora sì, funziona molto bene il prosecco, ma funzionano molto bene anche gli altri vini, infatti abbiamo un più 20% sull'export. E sulla questione prosecco noi abbiamo già depositato l'opposizione in Commissione Europea rispetto a quanto la Croazia ha richiesto, come lo ha fatto il Veneto e come lo ha fatto principalmente poi il Ministero dell'Agricoltura. Siamo fermamente contrari per una questione di principio, non solamente di un pericolo di concorrenza, ma proprio un principio, perché a questo punto non si spiega perché nell'avvertenza Tokai si sono assunte delle decisioni diametralmente opposte. Com'è andata quest'anno la lotta alla cimice marmorata che ha occupato le cronache dell'agricoltura degli ultimi anni? Visto che non le sta più occupando, vuol dire che gli interventi hanno funzionato. Con l'ultima finanziaria regionale si è aperta la strada per un organismo pagatore indipendente da AGEA. Come funzionerà in breve? Intanto è una decisione che tutti ritenevano necessaria già da quasi 10 anni, però alla fine chi l'ha dovuta assumere sono stato io. Consentirà, attraverso una gestione integrata con AVEPA ma autonoma, quindi l'ente pagatore del Veneto, di utilizzare il loro know-how e dare a questo punto la possibilità di una gestione sicuramente più efficiente di quella che oggi riscontriamo con AGEA. Ambiente e cambiamento climatico sono anche queste sfide per l'agricoltura di domani in regione. Sono sfide importanti, l'agricoltura si sta attrezzando a prescindere per affrontarli e anche i sistemi di sostegno all'agricoltura si allineano a questa necessità. Parliamo di politica agricola comunitaria, il Friuli Venezia Giulia si affaccerà alla nuova PAC nel 2023, con quali opportunità per gli agricoltori? Con uno scenario profondamente rivoluzionato rispetto a quello classico al quale siamo abituati, ci sarà un piano strategico nazionale che non è mai esistito in agricoltura, dovrà essere gestito, non sarà facilissimo, però ci saranno anche delle opportunità che si aprono proprio nel 2022 per gli agricoltori. Avremo sicuramente degli interventi che riguarderanno i giovani, che riguarderanno le attività di trasformazione, le attività di produzione di energia. Un bando interessantissimo legato alle attrezzature con dei criteri nuovi derivanti dal periodo di transizione della PAC, dove daremo dei benefici superiori però per attrezzature di elevata efficienza ed efficacia, proprio in visione di una transizione necessaria anche dal punto di vista ecologico. E poi ci saranno gli imboschimenti ed altre attività legate ai GAL, quindi un gran lavoro da fare anche nel 2022. Pane che sapeva di foresta, quello che si faceva, perché anche la farina era spesso un miraggio con la corteccia macinata degli abeti, lo racconta Angelo Floramo. Pan, nella lingua greca significa tutto. Non c'è nulla di più buono del suo profumo quando è appena sfornato. Gli antichi sostenevano che nella preparazione del pane dovessero essere coinvolti tutti gli elementi del cosmo. La farina e le uova sono la terra, cui si aggiungono l'acqua e il fuoco, e tutta l'aria per assaporarne la fragranza. I documenti d'archivio, in cui si custodiscono gelosamente le memorie del passato, ci raccontano di un Friuli povero contadino che nel pane riconosceva il privilegio della festa o la condizione di eccellenza, quasi di singolarità. Una malattia, il tempo sospeso della puerpera, l'ospite importante in visita alla famiglia. Nei casi migliori le pagnotte si infornavano una sola volta alla settimana, ma in moltissimi villaggi si poteva cuocere al forno una sola volta in un mese o addirittura in un anno. Per i giorni feriali doveva bastare la polenta, per la quale non c'era bisogno di un forno. Nei censimenti catastali dell'età medievale appare evidente che il forno in casa ce l'hanno solo i signori. Il profilo è ancora quello di un Friuli profondamente contadino o montanaro. A chi lavorava la terra, nel periodo che va da aprile a novembre, ai due pasti, per quanto frugali, si aggiungevano anche una colazione, una merenda, quest'ultima da consumarsi sui prati. Nei lunghi mesi invernali ci si doveva accontentare di soli due pasti. Nelle famiglie più povere si correva spesso il rischio di andare a dormire senza mangiare. In queste condizioni, quando perfino la polenta era considerata un lusso, è difficile immaginare che sul tavolo imbandito di fame e di miseria ci potesse essere posto per il pane. Eppure la resistenza delle genti nate in queste contrade era capace di trovare soluzioni inimmaginabili, come quella di inventarsi il pane del bosco. La farina non viene solo dal nobilissimo frumento o da altri grani meno nobili e dunque più economici. Anche la corteccia interna degli abeti, ridotta in polvere, è panificabile. Una polpa porosa, irrorata dalla linfa, che trasforma in vita i succhi della terra. Abeti e acqua fresca non mancavano nemmeno nelle più aspre vallate della Carnia. Triturata, macinata, polverizzata, veniva impastata con una quantità minima di farina e lievito. La madre, conservata viva, affinché potesse regalare poi l'incanto e la sorpresa della crescita. Il risultato? Un pane che sapeva di foresta, di bacche e licheni, di muschio ombroso e di resinosa essenza, capace di lenire perfino la tragedia dell'assenza. A Vita nei Campi abbiamo spesso discusso sul fatto che i prezzi agricoli sono troppo bassi rispetto ai costi di produzione. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, ci annuncia novità a tutela degli agricoltori. Il 30 novembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 198 del 2021 che recepisce la direttiva comunitaria 633 del 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e agroalimentare. Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per gli agricoltori e gli allevatori, in quanto interviene concretamente nei meccanismi commerciali che determinano la distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera, riequilibrando così i rapporti di forza tra chi produce e chi acquista per rivendere o trasformare. La norma, peraltro, arriva in un momento estremamente critico nel quale i produttori agricoli devono affrontare pesanti rincari dei fattori di produzione, dai carburanti fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi, fino ai mangimi per alimentare bestiame. In pratica il decreto che cosa dice? Anzitutto individua, descrivendole con precisione, 16 pratiche commerciali considerate sleali, che come tali saranno sanzionabili. Si parla di mancato rispetto dei termini di pagamento, non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili, dall'assenza di contratti scritti o di modifiche unilaterali dei contratti, di aste online al doppio ribasso, vendite sotto costo e molto altro. Tutte condotte disdicevoli, purtroppo molto frequenti, che deprimono i prezzi alla produzione a vantaggio dell'agroindustria e della grande distribuzione, che incassano la gran parte del valore aggiunto sui prezzi al consumo. Il risultato è che mediamente oggi in Italia per ogni euro speso al supermercato solo 15 centesimi vanno a remunerare il prodotto agricolo. Questa legge riuscirà a risolvere il problema? Ci sono tre elementi che fanno ben sperare sull'efficacia della norma. Il primo è che i controlli sono affidati all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi. È un organo del Ministero delle Politiche Agricole di grande esperienza che ha sedi su tutto il territorio nazionale, una anche a Udine, che conosce bene il territorio, le imprese e anche i prodotti. Il secondo è che le pratiche sleali potranno essere segnalate all'organo di controllo non solo dai diretti interessati, ma anche dalle associazioni di categoria, il che esporrà meno il singolo produttore a eventuali ritorsioni commerciali. Infine, ma non ultimo per importanza, il decreto 198/2021 fissa anche precise sanzioni amministrative, calcolate come percentuale del fatturato dell'impresa che ha messo in atto i comportamenti scorretti o, al limite, del danno teoricamente procurato alla controparte. Piacciono le piante tropicali agli ascoltatori di Vita nei Campi, soprattutto se da frutto e se si possono coltivare anche qui. Oggi Raffaele Testolin ci parla della feijoa. Non una coltivazione industriale, ma una pianta in giardino ci sta proprio bene, sia per il fogliame di un colore verde mare molto originale, sia per i bellissimi fiori con petali bianchi e stami rossi, sia per i frutti che spremuti danno un tocco esotico ai cocktail casalinghi. Si rischia veramente un figurone con gli amici. Ma veniamo alla pianta. È una specie sempreverde, originaria degli altipiani nel cuore dell'America del Sud, dove confinano Brasile, Argentina, Colombia e Uruguay. Non ama il freddo, ma in un giardino riparata dai venti di bora sta bene e sopporta anche temperature fino a 5-6 gradi sotto zero. Del resto l'ho vista coltivata in Friuli nel lontano 1982 nella zona di Fontana Fredda e le piante erano lì da alcuni anni belle e rigogliose. È un cespuglio che cresce fino a 4-5 metri di altezza, a volte oltre, ma può essere potato sommariamente per tenere contenuta la taglia. So di fare la gioia di chi ci ascolta dicendo che è una pianta che non ha bisogno di cure particolari e non ha bisogno di trattamenti di difesa. Molti di quelli che ci seguono alla radio apprezzano questi aspetti che permettono di coltivare piante da frutto senza molta apprensione. È necessario solamente prestare attenzione quando si acquistano le piante al livello di autofertilità. Le varietà più note in Italia, come Mammoth, Apollo, Gemini, tutte selezionate in Nuova Zelanda, producono poco e frutti piccoli se non sono impollinate da un'altra varietà. Per avere una produzione abbondante e frutti di buona pezzatura è preferibile mettere a dimora due varietà diverse. Il frutto matura a settembre e può essere raccolto mano a mano che serve, perché può restare in pianta per qualche settimana, poi cade a terra. Anche nel cesto della frutta, qualche feijoa in mezzo ad altra frutta attira certamente la curiosità degli ospiti. La vita delle api è estremamente complessa, si sa. Ecco allora il dizionario di Moreno Greatti dei termini più usati in apicoltura. Le api vengono allevate nell'arnia, che è il ricovero che viene appunto loro fornito. Per alveare invece si intende gli sciami di api all'interno dell'arnia, quindi arnia più api. L'apiario è un insieme di alveari ubicati in un unico gruppo. Il favo è la struttura naturale in cera costruita dalle api e costituita da celle esagonali orizzontali, dove vengono depositate le uova, il miele e il polline. Detto ciò, le arnie si dividono in due gruppi, arnie villiche e arnie razionali, a favo mobile. Le arnie villiche sono dei veri e propri contenitori per api ricavati da materiali diversi, tronchi cavi, canestri di vimiti, dove le api costruiscono liberamente i favi e quasi sempre si attua l'apicidio per prelevare i favi contenenti il miele che poi vengono spremuti. Le arnie razionali a favo mobile sono arnie di misura standard, dotate appunto di favi mobili, che quindi possono essere rimossi e se hanno dei corpi sovrapponibili, e per il prelieve del miele le api non vengono uccise. Un'arnia razionale è costituita dal nido, che è una cassa quadrangolare con misure standard, avente un'apertura nella parte bassa per consentire il volo, e dal melario, che presenta alla base le stesse dimensioni del nido, ma è alto generalmente la metà. Nel nido le api allevano la covata e immagazzinano le scorte destinate alla sopravvivenza della colonia. Il melario viene sovrapposto dall'apicoltore al nido solo quando quest'ultimo è occupato completamente dalle api, i favi sono ricolmi di miele e ci sono fioriture che consentono un'importazione di nettare. Non appena cessa l'importazione di nettare, ad esempio metà estate, il melario viene rimosso definitivamente fino alla primavera successiva. Pertanto nel melario verrà depositato il miele in surplus e destinato ad essere estratto dall'apicoltore. Un aspetto fondamentale delle arnie razionali sono i favi mobili. Per poter far ciò, le api vengono indotte a costruire i favi in cera entro telai di legno rimovibili. Per facilitare il loro compito, gli apicoltori fissano all'interno dei telai dei fogli di cera, chiamati fogli ceri, con impresse sulla loro superficie la base delle cellette. Le arnie a favo mobile consentono tutta una serie di operazioni tecniche che caratterizzano una moderna apicoltura produttiva. Inoltre permettono il controllo dello stato di una colonia e della sua sanità. Quando e come piantare è il tema che oggi Aldo Cavani sviluppa per la rubrica Amici Alberi, che come sapete segue un po' la traccia del libro omonimo pubblicato dalla LDN di Milano. Gli alberi si piantano quando sono in riposo vegetativo, di norma, perché gli alberi possono essere piantati, messi a dimora, a radice nuda, e quindi in questo caso è obbligatorio che il trapianto avvenga in stagione di riposo vegetativo, oppure possono essere con panni di terra o in vaso. In questo caso, teoricamente, si potrebbero piantare sempre durante l'anno. Però è chiaro che lo stress, ad esempio, idrico di un trapianto che avvenga in agosto è forte. È bene piantare piante di piccole dimensioni, perché più sono piccole più hanno la capacità di adattarsi alla difficoltà che incontrano nel momento del trapianto. Quando io le metto a dimora devo però garantire loro una buca nella quale distendere bene le radici, se sono a radice nuda, prima di riempire poi con la terra. Se sono con panni di terra, la buca deve essere leggermente un po' più grande, diciamo, del pane di terra stesso. È chiaro poi, se abbiamo dei terreni un po' rocciosi, come abbiamo a Trieste nella zona carsica, fare una buca grande è difficile, quindi ci si adatta a fare quello che si riesce. E subito acqua, perché la terra aderisca alle radici. E subito acqua e costipamento coi piedi perché la terra aderisca, e soprattutto posizionare la pianta non troppo profonda, cioè non coprirla troppo di terra, ma che il colletto sia esattamente all'altezza del suolo, a livello. Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 27 e 27,20 euro il quintale, Vesclusa. Lordo, peso specifico 62,65, tra 28 e 40, 28 e 80. Il frumento tra 32,10 e 32,60 e la soia tra 59,10 e 59,60. Discrete contrattazioni oltre il forticolo di Udine, però per le condizioni meteo avverse i prezzi delle verdure sono in leggero aumento, stabili invece quelli della frutta. L'insalata gentile, la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,60 e 1,80 euro al chilogrammo IVA esclusa, le zucchine tra 4 e 4,30, i finocchi tra 1,60 e 2,80, i pomodori in grappolo e i peperoni gialli e rossi italiani tra 2,30 e 2,50, la scarola riccia tra 2,40 e 2,60, il radicchio rosso tondo tra 1,20 e 1,40, quello di Treviso precoce tra 1,20 e 1,50, le arance Navel tra 0,80 e 1,30, l'uva spagnola tra 3 e 3,50, le clementine tra 0,70 e 1,50. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo precarie, i prezzi sono leggermente lievitati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 15 a 40 euro il chilo, IVA esclusa. Le sogliole da 6 a 24, le ombrine da 10 a 33, le canocce da 6 a 22, le orate da 8 a 24. Infine nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi in salita. I polli a terra vengono pagati tra 1,44 e 1,46 euro il chilo IVA esclusa, i caponi natalizi tra 4,45 e 4,55, le anatre tra 3,26 e 3,30, le faraone tra 3,27 e 3,37, i tacchini maschi tra 1,94 e 1,96, le femmine tra 3,25 e 3,35, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 17,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Dicembre è iniziato con nevicate abbondanti sulla zona montana fino a fondovalle, poi la stabilità atmosferica ha portato giornate soleggiate e temperature decisamente più basse della media, che sempre in montagna nei fondovalle sono state fino a 3 gradi in meno nel Tarvisiano, con minime che hanno toccato anche i meno 18 gradi a Fusine. Mentre verso la costa, con la ridotta presenza di afflussi freddi di bora, le temperature medie sono state leggermente al di sopra del normale. In questi giorni stanno passando dei veloci e deboli fronti atlantici, che oggi porteranno ancora qualche debole pioggia sulla costa, specie ad est, più difficilmente sulle altre zone. Qualche debole nevicata sarà possibile sul Tarvisiano. Da stasera e fino a domani mattina ci sarà probabilmente bora moderata a Trieste. Domani e martedì, condizioni di variabilità, con la quota dello zero termico inizialmente intorno a 1300 metri, ma che poi, già martedì mattina, risalirà oltre i 2000 metri, situazione che provocherà condizioni di inversione termica nei bassi strati, con possibile ristagno di nubi basse, specie su pianure costa. Da mercoledì in poi, i modelli matematici prospettano un'imponente espansione dell'anticiclone africano, con l'arrivo di masse d'aria secca ed eccezionalmente calde in quota. Lo zero termico si porterà addirittura oltre i 3500 metri. Avremo quindi giornate soleggiate e miti ad alta quota, previste anche 10-12 gradi a 1500 metri. Ma a fondovalle e in genere nei bassi strati, molto probabilmente persisterà l'inversione termica, che provocherà la formazione di nebbia, forse anche molto densa, e il ristagno dell'inquinamento. Tale situazione sembra permanere fino ai primi giorni dell'anno nuovo, sempre che non ci siano degli importanti cambiamenti della circolazione atmosferica, possibili anche in un breve lasso di tempo, e che rendono opportuno seguire il costante aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano Nadal al vacul feral, ovvero a Natale si deve utilizzare ancora il lume in quanto le ore di luce sono poche e tante quelle di buio. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.